Ok, e quindi greci italiani, una faccia, una Una razza, razza. come diciamo in greco, una faccia, una razza, con Una l'accento. faccia, una razza. Ecco, infatti questa cosa mi è stata detta in Grecia a Cefalonia, l'unica volta che mi è stata detta. E quindi allora, subito cominciamo. Io ho una domanda per te sulla Grecia. Allora, la Grecia è più o meno 10 milioni di abitanti. Sì, 11 credo. 11. 5 milioni abitano ad Atene. Quindi Atene è affollatissima e tutto il resto della È Grecia vuoto. è vuota. Poi c'è Tessaloniki, 1 milione. 1 milione, poi delle piccole città, però. Quindi, ecco, ma mi chiedo, ma come mai tutti i greci vogliono vivere ad Atene? Perché vanno tutti lì? Hanno isole bellissime, posti bellissimi e tutti vogliono vivere ad Atene. È per delle ragioni pratiche, perché ci sono lì i lavori, l'amministrazione, le ditte, eccetera. Non hanno sviluppato tantissimo il resto del paese, è un peccato per questo. Beh, e quindi poi cosa succede? In estate partono tutti e ritornano nelle isole e quindi Esatto. Atene è vuota, Atene è sì. Ecco, vuota e poi i piccoli paesi vivono di nuovo. Tutti ritornano e. devo dire che Atene, a parte la parte storica, non è che mi sia piaciuto molto, mentre tutto il resto della Grecia è adorabile. Anche Atene ha i suoi punti di riferimento. Uno deve conoscere, ci sono dei quartieri diversi. Ma io una cosa ho notato di quando sono stato ad Atene come turista, uno si aspetta la Grecia, l'agorà, quindi si viva in piazza, questo uno si aspetta. Invece le piazze erano vuote, nessuno si incontrava in piazza, si dava appuntamento in piazza, si è persa questa cosa dell'agorà. L'agorà in Atene no, non esiste così come, però nei paesi eccetera sì, Sì, quindi insomma la gente Atene. farà i giri sulla piazza per incontrarci. Quindi diciamo Atene non è una città greca. Ah, questo non possiamo dirlo. Vabbè, non diciamo, non diciamolo. E allora, tu sei, allora, come tutti i greci, hai vissuto ad Atene, adesso vivi qui a Bruxelles, ma la tua origine è isolana, di isole. Esatto, sì. Qui, quindi tu hai il papà di Creta e la mamma di Cefalonia. Ora, Cefalonia, beh, è la mia seconda patria, quindi possiamo Lo parlarne. so, lo so. Quindi, e volevo chiedere una cosa, mi è capitato, questa è una storia vera, parlando con un signore di Tessaloniki, che quando gli dicevo, ah guarda, io Cefalonia mi trovo benissimo, la gente di Cefalonia è aperta, è bravissima, sono simpatici, accoglienti, mi diceva, per forza, quelli sono italiani, ma è vero che i Cefaloniti sono considerati gli italiani di Grecia, è vero. È vero, tutti quelli nelle isole Ionie, perché sono stati più Vicini all'Italia, per vicini quello. all'Italia e anche sono stati solo sotto i veneziani per Sì, cento secoli. anni. Il dodecaneso. Il Ecco, dodecaneso. quella è ancora oltre. Qui Ah. stiamo parlando proprio delle isole più vicine È all'Italia. vero, è vero. Anche geograficamente. Sì, infatti, e poi ci sono alcune leggende che io ho scoperto su Cefalonia, andando là parecchi anni, che andranno raccontate. Benissimo, e una domanda. Perché la metà della popolazione greca parla l'italiano? Questa cosa, sì, è una cosa strana, perché ancora adesso la gente impara l'italiano, ci sono tante scuole di italiano, perché molti vanno per studiare in Italia, perché ci sono delle scuole che piacciono ai greci, perché non è facile entrare in Grecia, per esempio scuole d'architettura, sì. Architettura. E poi no, in generale l'Italia piace ai greci, piace il Una modo di faccia, una una faccia e una razza. razza, Oh, il modo molto di bene. vita, sì. Benissimo. Va bene, allora facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo in studio. E dopo le banalità di Daniele Silvestri, possiamo parlare di altre banalità tra di noi. Allora, dopo una faccia e una razza, io direi di parlare dei legami che ci sono tra l'Italia e la Grecia, o piuttosto tra gli italiani e i greci. E volevamo parlare della musica. Tu, so che parecchia musica italiana è stata tradotta in greco e cantata in greco. Sì, è vero che ci sono state molte cooperazioni tra gli artisti italiani e greci, perché Perché ai greci piace moltissimo la musica italiana, prima anche non tradotta, però dopo anche tradotta in greco, perché così è più facile di capire il senso. E poi adesso sì, ci sono molte canzoni fatte tra artisti italiani greci. No, no, ai greci piace moltissimo. Perché io, diciamo, cantanti greci conosco il grande, adesso mi sfugge il nome, comunque, Demi Rousseau. no, lui, vabbè, no, parlavo di uno ancora più grande, ed era Mikis Theodorakis, che Ah, ha sì. scritto i più bei brani musicali greci, e forse lui è quello che ha reso la musica greca famosa in tutto il mondo, grazie al cinema. C'era anche Hatzidakis con la musica del film Zorba. Ah, Zorba il greco, Sì, sì. anche questo. Però quelli erano già conosciuti negli anni 60, comunque non è una cosa molto nuova, Sì. Ah, molto. Però sono rimasti quindi conosciuti. un autore come Mikis Theodorakis è considerato un po' folcloristico dai greci No, no, o... no, Ah. non è una musica folcloristica, è un tipo di musica, perché lui ha usato un po', si è ispirato della musica tradizionale, anche degli strumenti, però ne ha fatto una cosa più diversa, in un altro livello. Però anche ai greci piace molto anche la musica tradizionale, folclorica. E poi ci sono, per esempio, tutti i legami con la musica dell'Italia del Sud, Sì, sì. musica grecanica. Sì. Ma infatti, tra l'altro, il folklore di Cefalonia, ritorniamo sempre lì, che appunto è un'isola molto vicina all'Italia, e io ho notato due cose. Allora, il folklore, proprio la musica folcloristica locale, non ha niente a che vedere con la musica greca, come può essere la musica delle Cicladi o del È vero. Dodecaneso. Cioè, è una musica che assomiglia al folklore italiano, come motivetti. Quando fanno le canzoni sulle barche, le Sì. cantate, sì, così. Questa cosa è molto, diciamo, italiana, veneta, Beh, credo. poi c'è un'altra cosa che ho notato. Io ero in vacanza lì e a un certo punto è arrivato un coro di signore greche che ha cominciato a cantare canzoni tipiche e una era il Paraponzi Ponzi Ah, Po'. sì, la famosa. Ma è possibile? Cioè, È com'è famosissima, arrivato il Paraponzi Ponzi Po'? ma è famosissima e credo che molti credono che sia greca. Sì, ma... Tra l'altro parla delle isole vicine, cioè la traduzione greca parla di quello che succede nelle isole vicine, no? Ah, Zante, sì. cioè, è una cosa incredibile. Io pensavo ancora una volta di capire, ma cosa dice? È una canzone italiana questa qua. Mentre quando mi capitò di Lucio Battisti non riconobbi Lucio Battisti, dicevo com'è famosa questa canzone, la conosco anch'io. Posso fare una domanda? Esiste il rap greco? Ma sì! Io ho troppa voglia di sentirlo, bisogna che me lo procuriate. Ah sì, troverò un... Sì, esiste, esiste, esiste, sì. Anche devi vedere anche il videoclip. Comunque, Bello, bello, grazie. ti assicuro che il Paraponzi Ponzi Po' in greco è uno spettacolo da non perdere. Io ce l'ho nel filmato del telefono, una cosa incredibile. Allora me lo devi spedire. Guarda, e oh, benissimo. Parliamo adesso di questi legami tra Italia, Grecia e soprattutto Italia e Cefalonia, perché Cefalonia è la porta della Grecia per gli italiani. Allora, volevo subito dire una leggenda che riguarda Cefalonia, che pare che hanno visto, c'è una sorgente sotterranea a Cefalonia, e per vedere da dove veniva l'acqua hanno messo del colorante e pare che dopo un anno l'acqua è uscita fuori in Sicilia. Quindi pare che ci sia questo legame sotterraneo nelle profondità della terra che unisce le due isole con un canale sotterraneo di una sorgente d'acqua. Questo me l'hanno raccontato sull'isola. E poi un'altra cosa Sì, ma che... Fabrizio, te l'hanno raccontato prima che hai bevuto l'uso o No, dopo? no, no, durante. E quindi già questa cosa è una cosa che mi aveva spiazzato, cioè un legame sotterraneo. E poi un'altra cosa, che appunto essendo stata un'isola che occupata dai veneziani per molto tempo, pare che ci sia un tunnel sotterraneo che unisce Castro, la vecchia capitale veneziana dell'isola, ad Argostoli, che invece è la capitale odierna. Tu ne hai mai sentito parlare di questo tunnel? Pare che addirittura sia scomparsa nei sotterranei una spedizione inglese finanziata per verificare dove erano, sono spariti, e la leggenda dice che ci sono delle trappole come in Indiana Jones, nel film Indiana Jones, che bisogna... Quindi è una cosa che mi aveva lasciato veramente... Tu non hai mai sentito parlare di queste... Ho sentito un po' che c'era un tunnel, però non sapevo che andava fino all'Argostoli. Così, la leggenda, ma di fatto nessuno l'ha mai potuto verificare. È possibile perché... che sia anche un po' modificato con i terremoti. Ah, probabilmente sì, perché c'è stato quello molto grave nel 53, sbaglio? Sì, 53, sì, sì. Quello che ha raso al suolo l'isola. Sì, sì. E volevo chiederti un'altra cosa, ma un'altra cosa che ho notato io, quando un greco di Cefalonia parla in italiano ha l'accento come di Lecce. Non so se tu, che parli bene l'italiano, hai mai avuto questa sensazione, hai riconosciuto l'accento di Lecce nei tuoi connazionali che parlano in italiano? Conosco l'italiano, però non tanto bene per capire questi. E questa cosa mi aveva colpito. Questa cosa mi aveva colpito perché mi sembrava di sentir parlare persone di Lecce. E quindi. Ma hanno tantissime parole anche nel loro dialetto. Sì. Hanno tantissime parole. Sì. Non solo italiane, del dialetto veneto. Sì, qualcuno ha imparato. Allora, una parola incredibile, lavamano. Che sarebbe il lavandino per lavarsi le mani, ma detto in un modo molto antico, molto arcaico. Lavamano. Poi sull'isola si usa dire mamma, papà, nonno, nonna nella esatto. lingua. Esatto, e anche la siora. E siora, infatti, invece in greco come si dice mamma e papà? È diverso, mamma, papà, yaya, papù. Diversamente, infatti sì. Usano molte parole diciamo di origine italiana, quindi questo mi aveva veramente credo colpito. Credo che siano rimasti anche sulla significazione... di prima sì. delle parole ci sono delle parole che non hanno niente da fare sì, con sì, sì. il significato di oggi sì, sì. Ma infatti un'altra cosa che mi è capitato sempre su quella bellissima isola che è Cefalonia, che conoscendo un signore, lui era orgoglioso del suo cognome, del suo nome di famiglia veneziano, e lui si chiamava Balsavias, e io non riuscivo a capire, ma veramente Balsavias non è un nome italiano. E lui invece mi aveva detto, guarda che TS, la Z è stata sostituita dal TS perché non esiste nell'alfabeto greco. La S finale è stata aggiunta dopo, quindi è Balsavia il nome originale. E lui era orgoglioso di questo nome veneziano, quindi salta via e ne era fiero. E quindi cercando poi altri nomi, effettivamente con piccoli accorgimenti venivano fuori tantissimi nomi italiani, proprio di antiche famiglie. Manzavino? Anche loro, quindi figuriamoci, veramente, insomma, qui stiamo parlando veramente di la porta d'ingresso, la porta di uscita dell'Italia e d'ingresso per la Grecia. Allora, tu parli molto bene l'italiano e conosci anche gli italiani. Ovviamente. Questa trasmissione vuole che tu ce li racconti, cioè noi dobbiamo capire come siamo visti dagli stranieri. È complicato. Ecco, allora... Allora, i greci italiani, una fazza, una razza. Quindi, prima di tutto, quali sono le differenze tra gli italiani e i greci? Che differenze ci sono? Ci sono delle differenze, perché non siamo... Pensiamo di essere un po' la stessa cosa, però abbiamo un po' delle mentalità un po' diverse. Ecco, allora, e spiegami un po', dove sono queste differenze? Quali sono? Nel comportamento, non so... Credo che ci siano anche in Italia una varietà più grande, che questo non abbiamo in Grecia, è più una cosa più omogenea. Ah, perché siete di meno e vivete tutti ad Atene. Esatto. Invece noi siamo distribuiti ovunque. Lì siamo una faccia, una razza. Sì, lì sì, ad Atene tutti uguali, è vero, è vero. Invece in Italia ci sono tante... mentalità o comportamenti diversi, dipende da dove viene la gente. E, ci sono questi cliché che abbiamo anche in Grecia, che tutti gli italiani sono la stessa cosa, che tutti vengono dal sud, hanno un comportamento... Esatto, esatto. Ma esiste un modo molto forte, molto diciamo, è troppo un cliché. Sì, eh? Quindi noi rispettiamo lo stereotipo che ci hanno... Che... Veramente, pizza, pasta, mandolino. Sì, ecco, è un disastro. È un pizza, pasta, mandolino e barbecue. Gli altri... Comunque, guarda, veramente, allora, noi adesso siamo qui e dobbiamo assolutamente... superare questo stereotipo che ci riguarda. Per esempio, io non conosco uno stereotipo che riguarda i greci, io non lo conosco perché non saprei dirlo, però dobbiamo superare questo stereotipo. Allora, dimmi una cosa, qual è, secondo te, l'aspetto degli italiani che non corrisponde agli stereotipi che ci dipingono? Allora, io non sono il mandolino. No, è questa, per esempio, che la questa della musica, tutti questi... cliché che sono possibilmente legati a una regione più precisa, allora che c'è tanta varietà in Italia. Ma, e spiegami una cosa, se un italiano suonasse il mandolino a una ragazza greca, la ragazza greca rimarrebbe colpita o no? Dimmi un po'. Perché esiste anche il mandolino in Grecia, non so perché allora vai a trovare il mandolino in Italia. Ti spiego, io suonavo quando ero giovane, cercavo di far colpo sulle ragazze, suonavo la tromba. E non ho mai acchiappato nessuna ragazza con la tromba, quindi mi chiedevo se ho sbagliato strumento oppure se proprio non è amore per la musica, non lo so, forse suonavo troppo male, non lo so. Comunque va bene, allora d'accordo. Quindi allora tu ci confermi che non siamo tutti, non seguiamo lo stereotipo? No. Lo stereotipo... No, ci sono piuttosto, diciamo, diversi stereotipi. Sì, eh? Perché adesso noi siamo alla ricerca qui in Belgio di un italiano che abbia la Vespa, che faccia la pista e suoni il mandolino. Lo stiamo cercando. Sì, Fabrizio, poi magari anche uno che vada sempre in giro con gli occhiali da sole, ecco, che va a letto con gli occhiali da sole e si sveglia con gli occhiali da sole addosso. Lo stiamo cercando, anzi facciamo un annuncio ufficiale, se ce n'è uno che corrisponde a questa descrizione, può venire qui in studio e sarà nostro ospite. Benissimo. Tu, gli italiani che hai conosciuto, ti hanno sorpreso per qualche cosa oppure sono abbastanza persone normali? Nessuno è una persona normale. Soprattutto gli italiani. Soprattutto gli italiani, esatto. No, ci sono delle cose che mi hanno... Che ho trovato un po' diverse guardando il mio modo di fare, eccetera. Però devo dire che la cosa che mi colpisce di più dagli italiani, in generale, anche come persone o in gruppo, è la cosa con il cibo. Ah, il rapporto col cibo? Il rapporto con il cibo. E cos'è un rapporto? Trovo che è una cosa che non si trova da nessuna altra parte. E questa cosa mi preoccupa. Il rapporto con il cibo è troppo ossessivo? Sì, anche un modo molto dettagliato. Molto dettagliato. Ah, no? Che cercano le cose che hanno a casa, le cercano anche fuori casa, che hanno un'idea molto precisa di quello che vogliono. Quindi che, diciamo... che possono tra di loro litigare per un dettaglio di una ricetta. Fabrizio, secondo me lei ha ragione. Tu prendi 5 italiani, li metti dentro una stanza, la prima cosa di cui parlano è del mangiare. Grana parmigiana. Se sono all'estero. Metti 5 belgi, parlano del meteo. Ah, pensavo della birra, avrebbero parlato della birra. Invece... Sì, potremmo aprire uno studio, fare un master, non lo so. Ah, quindi insomma, vabbè, quindi questo ci tocca, il cibo ci tocca, nostra competenza. Va bene, facciamo una pausa musicale e ritorniamo qui in studio con Xenia. Oggi inizia una nuova rubrica nella quale parleremo dell'uomo e della donna contemporanea. Ci aiuterà in questo la dottoressa Controversia, sociologa e antropologa, teorica dei contrasti evolutivi dei generi umani. Benvenuta, dottoressa. Grazie a voi per l'invito. La prima domanda è proprio sui contrasti evolutivi dei generi. I contrasti evolutivi sono le distanze tra il genere uomo e il genere donna. Con il progredire dell'evoluzione umana esse sono aumentate, rendendo oggi i generi maschile e femminile completamente incompatibili tra di loro. Come incompatibili? Credevo che con il progresso le distanze tra i sessi si fossero ridotte. Lei è un uomo, non si è accorto di nulla, non mi meraviglia. Ma non è colpa sua, è tipico, lei è solo un uomo. In che senso, scusi? Lei, il suo genere intendo, sono recentemente, sì, è evoluto passando dalla fase primitiva della clava a quella che nella mia sociologia del contrasto fra i generi definisco modello Tarzan. Il punto di evoluzione massima raggiunto dal genere maschile. Tarzan, cos'è? Il punto di congiunzione nell'evoluzione tra il primitivo che è stato e l'uomo emancipato che non è ancora, tra un uomo selvaggio e un uomo civile. Tarzan, quella metafora dell'uomo postmoderno contemporaneo che parla senza usare i soggetti, incapace di usare i congiuntivi che non coniuga i verbi. Un linguaggio postmoderno senza un prima né un dopo, che passa il suo tempo con animali molto più evoluti di lui, quali una scimmia, un elefante, un leone, con i quali parla, si confronta e imita. Ongawa per scacciare il leone e ai-ha per richiamarli a sé. Vabbè, quello è Tarzan. Non ho mai sentito nessuno farlo nella vita. Figuriamoci, ma lei è solo un uomo, non ha colpe. Basta andare in uno stadio per ascoltare questi versi. In un mercato, in un bar, su una spiaggia, ovunque si siano radunati uomini. D'accordo. Vada l'immagine dell'uomo Tarzan, ma qual è il ruolo della donna? È Jane? Jane è la donna postmoderna, è la donna evoluta che riesce a far convivere la sua modernità con l'arretratezza primitiva del suo uomo. Lei è oltre la modernità, lei è postmoderna e multitasking. Lei ha studiato queste cose, ci fidiamo. Da quel che ha detto, si intuisce che per via della diversa evoluzione tra il maschio e la femmina, i rapporti tra loro siano difficili. Diciamo impossibili. Ha presente l'intesa che si può avere con un pesce rosso in una palla di vetro? No, non ho presente, mi dispiace. La donna multitasking agisce a 360 gradi, si muove agilmente in tutti gli ambienti, in tutti i pensieri. Agisce linearmente in tutte le direzioni, vede tutto, sente tutto, ricorda tutto, fa tutto contemporaneamente, simultaneamente, parallelamente. L'uomo invece come agisce? Attraverso un solo pensiero, il suo, sbagliato. Una sola direzione, sbagliata. Lui non avanza, scava verso il basso. Io non riesco a capire. Ci può fare un esempio concreto? Ci può illustrare una situazione tipica tra una donna multitasking e un uomo Tarzan? La donna multitasking invita l'uomo Tarzan a una cenetta intima a casa sua. La donna multitasking non trascura nessun dettaglio. Appena ritornata a casa, per non fare brutte figure, pulisce la casa a fondo. Lei sa che l'uomo Tarzan, una volta entrato, esplora il territorio e lascia tracce biologiche per segnalare la sua presenza. Come tracce biologiche? Le lascia, mi creda. Se lo dice lei che ha studiato, ci crediamo. La donna multitasking pulisce dentro i mobili, poi li smonta e pulisce dietro i mobili, poi li rimonta e li ripulisce. Pulisce le superfici, i tappeti, rilava tutti i suoi vestiti, anche se già puliti. Vabbè. Le tovaglie e gli asciugamani, cambia la disposizione dell'arredamento, passa una mano di vernice fresca sui muri perché si veda che tutto è pulito. Lei sa che l'uomo Tarzan, nelle sue perlustrazioni, potrebbe arrivare in punti della casa fino allora inesplorati. Allora lei richiede una pianta catastale e la studia nei dettagli per essere certa che nulla le sfuggi. Mamma mia, mi sembra un'esagerazione. E dopo aver fatto tutto questo, le resta ancora il tempo per stendere i panni, battere i materassi e spolverare tutte le luci della casa. Non si sa mai che l'uomo Tarzan decide di arrampicarsi sui lampadari come una scimmia. Addirittura, dottoressa. Il campanello suona, l'uomo Tarzan è arrivato. Per non farlo andare in giro in tutta la casa, la donna multitasking con i suoi cuscini prepara un giaciglio sul divano per lui, per farlo sentire come nella sua tana. L'uomo Tarzan ci casca, si accomoda e comincia a farsi la toilettature. Come la toilettatura? Si lesce i capelli, si pulisce le orecchie, il naso, le unghie. No, non è vero, dai, non le fa queste cose. Le fa. Mentre l'uomo Tarzan è impegnato con se stesso, la donna multitasking comincia a preparare la cena e contemporaneamente a sostenere una conversazione basica con il primate, facendo ampiamente uso di aggettivi gradevoli quali soave e pulito, che l'uomo Tarzan ignora, parlando con la voce leggera, senza mai perdere d'occhio, mette l'acqua a bollire per la pasta, le verdure in padella, fa un'altra lavatrice, ripulisce la casa dove l'ospite ha sporcato, gira le verdure, sbuccia le patate, mette la carne nel forno, passa l'aspirapolvere e lo straccio sui pavimenti, fa il cambio di stagione negli armadi, dà una girata alle verdure, più tardi aggiungerà le spezie, controlla la cottura della carne nel forno, cuoce le calze, pulisce le scarpe, fa la doccia, apparecchia la tavola, guarda alla TV il suo programma preferito che dura solo un'ora. Per fortuna. Telefona all'amica per un saluto, getta la pasta nella pentola. Donna multitasking, per sostenere un minimo la conversazione col suo timido ospite, gli racconta la sua giornata, racconta quello che si è detta con l'amica e l'elenca all'ospite tutte le cose che potrebbero fare insieme nel weekend. Immagino quante siano. I grugniti evasivi dell'uomo Tarzan la destabilizzano. Dimentica di girare le verdure nella padella e il profumo di bruciato si diffonde nella casa. Lascia la carne troppo tempo in forno, comincia a fumare come il camino di un piroscafo. Butta la pasta nella pentola con l'acqua in ebollizione, apre le finestre per areare, scrosta le verdure dalla padella e recupera la carne dal forno. Il sale. Scusi? Il sale. La donna multitasking non ha messo il sale nell'acqua della pasta. Sta cuocendo la pasta senza il sale. Lo sapevo. Ecco l'uomo Tarzan, che puntualmente trova il difetto nella donna multitasking. Ecco la critica inutile che vuole sminuire l'importanza del lavoro della donna. Ma io non volevo criticare, volevo dare un aiuto alla donna multitasking. E a questo punto la donna multitasking si innervosisce e risponde a tono all'uomo Tarzan con voce forte, senza prendere il fiato, gli elenca tutti i suoi difetti, i suoi limiti, le sue mancanze. A questo punto cosa fa l'uomo Tarzan? Cosa fa? Va alla toilette. E cosa fa alla toilette? Non lo so, cosa fa? Lo dica, cosa fa? Ma non lo so, tante cose. Lo dica, cosa fa un uomo nella toilette? Ma non lo so, lo dica lei che ha studiato. Ma non si vergogni, lo dica pure. Cosa fa un uomo nelle toilette? Dipinge. No, fugge. Chiuso in una toilette. Fugge dalla conversazione, fugge dal contraddittorio, fugge dall'interrogatorio, fugge dall'inquisizione. Fugge dalle responsabilità, fugge dagli obiettivi, fugge dagli impegni, fugge dai doveri, fugge dai vincoli, fugge dalla realtà, fugge dall'oggettività, fugge dalla maturità, fugge dall'età adulta, fugge dalla famiglia, fugge dai figli, fugge dalla donna, fugge dalla socialità, fugge dal confronto, fugge dal raffronto, fugge dal dibattito. La verità fugge dall'obiettività. Dottoressa, la salutiamo, dottoressa. Torni a trovarci presto, per favore. Grazie tante, fugge la saluto. Dallo stabilito, fugge dallo statuito, fugge dal prescritto, fugge dall'ordinato, fugge da se stesso. Oh, la dottoressa ha finito, torniamo in studio. Xenia, il tuo nome ci incuriosisce e ha un significato il tuo nome? Sì, viene da la radice xenos, che vuol dire lo straniero. Per esempio, la parola xenofobo vuol dire quello che ha paura del straniero. Straniero. È così, però io non ho paura dello straniero. Ah, sì. Perché Xenia vuol dire questo, che la persona che è ospitabile, che ama gli altri. Ah, quindi l'esatto opposto del significato. Allora, siamo arrivati a inaugurare un gioco che facciamo con i nostri ospiti internazionali. Allora, io ti leggerò una frase che riguarda gli italiani e tu mi dovrai dire se secondo te è stata pronunciata da un italiano o da uno straniero. E poi ne parliamo. Allora, la frase è questa. Gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero le guerre. Secondo te chi le può aver detto? Un italiano o uno straniero? Credo che sia un straniero, perché questa è una osservazione, mi sembra una osservazione esteriore. Esatto, infatti Winston Churchill, è attribuita a Winston Churchill, io non ho trovato la fonte, però molti l'attribuiscono a lui. E di fatto cosa vogliono dire? Significa che gli italiani prendono seriamente le cose leggere e alla leggera le cose serie, secondo però te no, non si rendono conto di questo. No, assolutamente. È questo. E secondo sì, te è vero? Può essere, sì, e poi non è tanto male. No, eh? No. Allora forse per quello che ridono spesso, per questo motivo, perché le cose serie vengono prese alla leggera. Quindi va bene. E secondo te i greci sono simili? Anche loro prendono le cose importanti alla leggera, le cose leggere seriamente? Dipende, lì sono un po' più, qualche volta possono anche prendere una piccola cosa e fare una molto importante, possono essere molto... In questo, come dire, pignoli, aggravare, benissimo. Ah, questo è un aspetto che sì, un po', sì, per questo che non conoscevamo dei greci. Va bene, e vedo che allora il tempo comincia a stringere e Xenia ci ha portato una canzone che desiderava ascoltare. Direi ascoltiamo la canzone di Xenia, così poi magari ne possiamo parlare. Bene, ritorniamo in studio. Questa canzone ce l'ha portata Xenia. E perché è la sintesi di quello che siamo qui. Praticamente c'è un cantante italiano che è Salvatore Adamo, che è un italiano di Bruxelles, che canta una canzone insieme a un cantante greco. Esatto, è questo. È the best of both worlds, il migliore di tutto. Quindi insomma hai voluto proprio sintetizzare, parola greca, no? Sintesi, hai voluto mettere insieme tutte queste cose per il tuo arrivo. Italia, stato... Belgio e Grecia. Esatto. È stata e il francese anche. Esatto, è avuto proprio una bella idea. Benissimo, noi siamo arrivati purtroppo alla conclusione del programma, dobbiamo salutarci, diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori per la prossima puntata di mercoledì. Certo. Daniele, vuoi ricordare la pagina Facebook dove ci possono contattare chi vuole? Sì, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo una pagina Facebook che si chiama Barbecue, dove potete trovare i podcast di tutte le nostre trasmissioni, dei contenuti speciali, anche delle foto, soprattutto potete essere tenuti al corrente di tutto quello che avverrà. E vi invitiamo anche ad ascoltarci via streaming tramite il sito di Radio Alma. Oppure se siete a Bruxelles, sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Esatto. E un'altra cosa, invito tutti a mettere like o mi piace alla pagina in modo da avere direttamente i contatti con noi. Chi vuole venire ospite in studio può farlo contattandoci attraverso la pagina Facebook. E magari si presenta anche con gli occhiali da sole. Esatto, se è italiano. E altra cosa molto importante, è chi volesse venire in studio a fare il pubblico, chi vuole venire a partecipare in maniera dal vivo a una trasmissione, può contattarci sempre attraverso la pagina. Altra cosa importante prima della chiusura finale, noi stiamo cercando uno sponsor per realizzare le magliette da regalare ai nostri ascoltatori. Quindi chiunque è in contatto con possibili sponsor o vuole sponsorizzare il nostro programma, ci contatti per realizzare queste magliette da regalare ai nostri ascoltatori. Un filantropo. Ah, esatto. Benissimo. Ringraziamo Xenia che è stata con noi, ci ha fatto compagnia. Grazie. Ci ha raccontato un sacco di belle cose. Ringraziamo gli ascoltatori. Salutiamo tutti. Arrivederci.